Bam! Wanna tell you about the girl I know. My, she looks so fine. And she's the only one that I've been dreaming of. Maybe someday she will be all mine. I wanna tell her that I love her so. I'm through with her every touch. I need to tell her she's the only one I really love. Got a woman, she won't be true now. I got a woman, stay drunk all the time. I said I got a little woman and she won't be true. On Sunday morning when we go down to church, see the men folks standing in line. Who say they come to pray to the Lord, but when my little girl looks so fine. In the evening when the sun is sinking low, everybody's with the one they love. I walk the town, keep a searching all around, looking for my street corner girl. I've got a warm, warm ball all day. I've got a warm, she won't be true, no, no. I've got a warm, stay drunk all the time. In the bars with the men who play guitar, sit and drink it and remember the time. My little lover does a midnight shift. She falls around all the time. I guess it's just one thing left for me to do. Well, I pack my bags and move on my way. Cause I got a worried mind, share them all out, so it's mine. Or leave her with a guitar's play. I got a warrant, she won't be true, no, no. I got a warm, warm ball all day, yeah, yeah, now, now. I got a warm, stay drunk all the time. I got a little woman and she won't be true. I said she won't be true, no. Yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah, no. Can I do? Alle 10:36 minuti primi, la voce di Marco Gravelli con voi. In arrivo anche il primo appuntamento di questa giornata, ed essendo oggi lunedì, il primo anche della settimana, con lo spazio dedicato ai concerti. Travis Blues Band dal vivo il 31 di maggio a Paderno Dugnano, presso l'anfiteatro Parco Lago Nord. Il giorno 23 di maggio al Jamba Live di Rapallo, provincia di Genova, dal vivo gli Oboi, Ricochet e a seguire DJ Set con Edo Rossi. 31 di maggio, stadio San Siro di Milano, The Fratellis, The Hoosiers, The Fashion, Fink e Negramaro. Motor Psycho saranno il 22 di maggio al Viper di Firenze, il 24 al Velvet di Rimini, il 25 all'Alcatraz di Milano. Venerdì 23 di maggio, Pala Sharp di Milano, si concluderà la prima parte del nuovo tour degli After Hours. 26 maggio Teatro Fanin Bologna, 27 maggio Music Drone Milano per Glenn Hughes, Queensryche il 7 di giugno all'Alcatraz di Milano, unica data italiana. Continuiamo con i Napalm Death, Suffocation e Warbringer, saranno dal vivo il 23 di maggio al New Age Club di Roncade, provincia di Treviso, il 24 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. Rock and Field Festival 26 di luglio, Idroscalo di Milano con Biomechanical, Vision Divine, Threshold, Epica, Halloween ed Avantasia. All'Elvis Fan Club di Stagno, provincia di Livorno, venerdì 23 maggio, Fabio Lione e The Bad Boys dal vivo. Gods of Metal, venerdì 27 di giugno. Tra gli altri, Apocalyptica, Rosta 2, Avenged Sevenfold, Iron Maiden. 28 giugno, At the Gates, Testament, Meshuggah, Carcass, Slayer. 29 giugno, Obituary, Morbid Angel, Yngwie Malmsteen, Iced Earth, Judas Priest. Deep Purple saranno a Torino il 13 di luglio alla Colonia Sonora, il 15 e il 16 luglio invece al Teatro Smeraldo di Milano. Bad Religion, 16 giugno, unica data italiana al Rolling Stone di Milano. Così come per il Rage Against the Machine, 14 giugno, unica data allo Stadio Braglia di Modena. E chiudiamo con l'Evolution Festival, venerdì 11 luglio all'Idroscalo di Milano, con, tra gli altri, Sadist, Corky Plani, Evergrey, Dark Tranquility, Sonata Arctica e Cavalera Conspiracy. 12 luglio, novembre, Necrodeath, Pain of Salvation, Death Angel, Gamma Ray, Opeth, In Flames. Termina il nostro primo appuntamento di questa giornata con lo spazio dedicato ai concerti, il prossimo più tardi nel pomeriggio di Rock FM. Anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory, and we close the door. I just made one mistake, I didn't know what to say. When you call me baby, don't say goodbye. Say you're gonna stay forever. Oh, oh, oh, forever. Una quindicina di minuti alle ore 11, poi inizierò la mia ultima ora di questa mattinata. Vi lascerò alle 12 allo scoccare del mezzogiorno del cuoco insieme a Claudia, che è già nei nostri studi. Quindi buongiorno anche a te, Claudia. Un saluto va a Nico, che dice: ciao Marco, oggi e domani niente scuola, e quindi sei all'ascolto, buona giornata a te. Un saluto anche al Fefo, un saluto ad Alfred da Genova, che mi chiede se il 24 giugno ci sono i Kiss a Milano. Sì sì, confermato, al Sago, diciamo, alle porte di Milano, al Dutch Forum, ci saranno dal vivo i Kiss dopo aver suonato già all'Arena di Verona pochi giorni fa. Daniele da Firenze mi dice: buongiorno Marco, nottata strepitosa quella di venerdì, a quando il download? Ma il download, francamente, come avevo spiegato, non ci sarà, però noi abbiamo registrato tutto, non lo porremo in download, troveremo altri modi magari per, se vi interessa, fare avere quella registrazione di quella lunga nottata, poi nemmeno troppo lunga, perché eravamo in quattro, è volata veramente. In arrivo invece a livello musicale le prossime due canzoni che portano il marchio degli U2 e dei Bon Jovi.

Rifatta e riproposta in una altrettanto valida versione anni e anni dopo dai Ramones, questa Surfing Bird per la formazione dei Trashmen. Vado a salutare altri amici che mi stanno inviando sms al 335 1007777, come Volfango dalla Toscana e Fiore, grazie ma non parliamo di calcio, di calcio non se ne parla più da tempo. Sia che si vinca, sia che si perda, di calcio non se ne parla, solo di buon sano rock and roll. Arriveremo in effetti alle 11 con questa canzone, The Guns N' Roses, dal titolo Night Train.